Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Abbasso i catto progressisti. Manera alla para influenza. Alino ai baffi lunghi. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Le scarpe mi stanno strette. Leonardo ha ragione. Il pappagallo è rosso. La scuola non riapre. L'aquila vola. L'edicola è aperta. La mucca non dà latte. Ebbene è sì. È cessata la pioggia. Cari ascoltatori, siamo qui dalla ridotta di Viale Monza, anche oggi in diretta dal balcone dal quale posso vedere gente che va in giro, macchine che si spostano, altri che sono nel balcone di fronte a me, li saluto, salve, siamo in diretta su Radio 24, buongiorno anche a lei, saluto la signora. Siamo qui dalla ridotta di Viale Monza, signori. Oggi sono un pochino arrabbiato, devo dire, per alcune notizie che ho letto sui giornali, tra poco le vediamo. Sono anche un pochino arrabbiato un attimo col mio edicolante, scusate che devo dirgli: Luca, non mi hai dato la gazzetta dello sport! Te la meriti, devi lavorare! Sì, vabbè, non mi ha dato la gazzetta dello sport, capisco che il calcio è tutto un po'... ma non mi ha portato nella mazzetta la gazzetta dello sport. Scusate questa lamentela iniziale, cari ascoltatori. 349-238-6666, questo è il numero per intervenire. Accosto un attimo la finestra che cigola un po', devo mettere dell'olio, scusate. 800-24-0024, questo è il numero per intervenire in diretta dalla ridotta di Viale Monza. Un pochino arrabbiato, devo dire. Perché? Perché oggi, adesso lo posso dire, finisce il mio 14° giorno di quarantena. Quarantena, ebbene sì, ero in quarantena essendo entrato in contatto con una persona risultata positiva. Tutto a posto, io e i miei figli non abbiamo manifestato nessun sintomo, stiamo benissimo, siamo contenti, siamo felici. Ci dispiace per questa persona che è in ospedale, ma insomma si riprenderà, sono sicuro. E quindi io sono stato ligio al dovere. Ora io sono un po' più sereno, perché un po' di angoscia, devo dire, che ti viene in questi giorni a pensare a chissà se sono stato contagiato. Invece è tutto passato, è tutto sereno. Quindi io sono stato ligio, ho rispettato tutte le regole. E vedere attorno a me che tante persone invece non lo fanno, mi fa un po' arrabbiare. A te fa arrabbiare, Angelica, che poi dobbiamo entrare in diretta, tu dovresti andare a scuola, fa arrabbiare questa cosa? Puoi dire sì, no, non lo so. No, non fa arrabbiare, va bene. Angelica se la vive così. Allora, Alpino, facciamo così. Partiamo da una canzone che tutta Italia conosce, anche se è il simbolo di Milano, suonata da un grande trombettista dal balcone, che ha fatto molto molto bene a tutta l'Italia. Vai! Tromba di Raffaele Kohler, che a Milano risuonato dal balcone. riscuotendo questo bellissimo applauso diventata virale sui social, un segno di incoraggiamento. Però ecco, qui da qui la rabbia. Ci sono, almeno controllando le celle dei telefoni, l'abbiamo sentito nel giornale radio, eccetera, il 40% dei milanesi stanno a casa, dei lombardi, e lombardi, non milanesi, lombardi, e il 60% no. Io dico, ma dove cavolo dovete andare? Io sono stato ligio, è stato pesante questo momento, fastidioso, portatemi la spesa a casa e per favore a mio fratello e Luca lasciami la mazzetta dei giornali sullo zerbino. Cioè, ho rispettato tutte le regole e poi vedo gente ammassata sui vagoni delle metropolitane, e questo non è colpa loro, sono state incredibili in questo momento ridotte le corse, per cui la gente sta più stretta, la gente che va in giro, la gente, guarda, l'ha detto il presidente dell'ANCI De Caro, sindaco di Bari, nei giorni scorsi, andando in giro e trovando le persone nei parchi. Fallo sentire, Peter. È una cosa seria, non è un fatto normale che siamo qua tutti nel parco, dobbiamo stare a casa, dai, dobbiamo soffrire qualche giorno e ne usciamo, andiamo a casa, via. Non sloggiare, un assembramento. Ha fatto bene De Caro, via, sloggiare, che cazzo ci fate qui? Questo avrebbe dovuto dire, forse vorrei dirlo io un po' più rabbioso. A Forlì, cari ascoltatori, a Forlì la giunta della Lega ha istituito un drone che controlla la città, vola sulla città e chiede e controlla, vede le persone, a dire dove state andando. Allora io faccio il solito invito: 800 24 00 24, tutti coloro che stanno lavorando, e li ringraziamo. Fateci sapere che tipo di lavoro fate, ma tutte le altre persone che devono fare la passeggiatina, lo spostamentino, il girettino, lo dico proprio alla milanese, no? Imbruttita, il movimentino, la sgranchitina, ve ne state a casa sì o no? Ve ne state a casa sì o no? Fate tre giri su voi stessi e avete fatto tutto quello che dovete fare. Va bene, c'è anche De Luca, vai De Luca. Ho dovuto fare un'altra ordinanza più rigorosa di quella nazionale. Chiudiamo i ristoranti, chiudiamo le pizzerie alle 18 di sera, possiamo fare il trasporto di pizze da asporto. In Campania no. Stiamo parlando di 15 giorni di tempo. 15 giorni. Stiamoci fermi. Dai, su, ha ragione. Oggi tra l'altro Carlo Verdone, in un'intervista al Fatto Quotidiano, dice che il governatore della Campania De Luca è il più grande attore italiano dai tempi di Recitazione meravigliosi, tanto che in certi momenti supera i De Filippo, ed è lui soprattutto che lo fa molto ridere. A proposito di Fatto Quotidiano, però, devo dire anche questo, signori. Ci sono a Napoli diversi medici. E faccio la premessa: quanto abbiamo parlato bene dei medici, di tutti gli operatori sanitari, si è forse scomodata la parola eroi, non lo so se è giusto, non mi importa, comunque tutti coloro che lavorano in maniera molto molto precisa, molto molto puntigliosa. Ebbene, poi c'è a Napoli, al Cardarelli, i furbetti in camice, 249 medici che si sono messi malati e hanno spinto il direttore del Dipartimento Emergenze del Cardarelli, Ciro Mauro, a diramare questa nota. Penso a tutti gli operatori del Cardarelli che sono al loro posto. E penso anche a tutti quelli che si nascondono dietro un certificato medico fasullo, lasciando i colleghi da soli a lavorare. Non abbiamo rancore contro questi, ma solo commiserazione. E ha ragione, commiserazione, dice il direttore del reparto emergenze del Cardarelli, Ciro Mauro. Per tutti costoro mi sa che sento un profumino in arrivo, caro Alpino, mi sa. Avete la faccia come il culo. E dai, su. Ci chiamate all'800 24 00 24, mandateci WhatsApp, audio e anche SMS se volete, 349 238 6666, perché io vedo quelli nel mio ultimo giorno di quarantena, 14esimo giorno a casa. Vi assicuro che è stato fastidiosissimo, pesante. Sì, va bene il Papa, riscoprite la carezza con i vostri figli, sono volate anche, come dire, delle paroline oltre che carezze, va bene, però è finita, per quel che mi riguarda è finita. Adesso ancora due giorni a casa penso di stare, poi da lunedì trasmetterò dalla radio, quindi ho svelato il mistero di questa trasmissione dalla ridotta di Viale Monza. Ma voglio salutare il primo ospite che è con noi, si tratta di un docente analisi dei dati all'Università di Torino, noto sociologo, Fondazione IUM, il professor Luca Ricolfi. Grazie professor Ricolfi e grazie di essere qui in diretta. Buongiorno a voi. Senta professor Ricolfi, lei ha lanciato una, lei e i suoi colleghi avete lanciato una petizione che adesso vorrei ci spiegasse, magari dando anche i dettagli su dove si possa firmare, chiedendo una solidarietà europea sui posti di terapia intensiva, che sappiamo che sono uno dei punti critici di questa emergenza coronavirus. Prima della petizione le chiedo, certo, proprio in questo momento che invece l'Europa sembra chiudersi, blindarsi, lei stesso è stato molto critico verso i leader europei in vari interventi al Messaggero, davvero c'è bisogno di questa solidarietà secondo lei? È il momento giusto? Ma guardi, io sono completamente pessimista, l'ho fatto come un gesto disperato, perché per ragioni abbastanza casuali sono in costante rapporto con persone che operano a Bergamo e la situazione da settimane io sento dei drammi per le terapie intensive, quindi mi sono, per così dire, sensibilizzato questo problema, ho visto le statistiche, ho fatto i calcoli di quando il sistema sanitario italiano va in crash e i calcoli davano tra domani e dopodomani come data finale in cui sarebbe stata complessivamente superata la capacità, che però è già superata in alcune realtà locali, perché ovviamente la diffusione dell'epidemia non è uguale su tutto il territorio nazionale, quindi noi stiamo per fare crash. Mi sembrava doveroso fare questo appello e devo dire che è stato un flop, molto onestamente. Perché? Perché dice un flop? Beh, perché quando lei lancia un appello così drammatico su una cosa così importante, cioè la mancanza di posti di terapia intensiva con una soluzione a disposizione, che di usare quelli vuoti della Germania, e non c'è risposta, io dico che è un flop, perché noi abbiamo circa 300 adesioni in 24 ore più o meno, di gente normalissima, ma il mondo politico non ha minimamente reagito, i media nemmeno, voi siete i primi che prendono in qualche considerazione il nostro appello, e quindi così mi sento un cittadino rassegnato e bastonato dalla inerzia e dall'ottusità della politica. Ma invece professore, io spero insomma che anche questa piccola finestra possa dare, fare un po' di luce su questa proposta. Su change.org credo sia questa proposta, sì, no? Esattamente, per chi la volesse trovare. E uno la può trovare su change.org, c'è un titolo, c'è un modo per riconoscerla facilmente? Ma credo che basti mettere petizione Fondazione IUM, perché è la fondazione, perfetto, che ha fatto la petizione. Il dato di base, lo riassumo per gli ascoltatori, è questo. Noi abbiamo 5.000 posti circa di terapia intensiva che sono stati potenziati in queste settimane con gli sforzi del personale sanitario. I malati che hanno bisogno di terapia intensiva stanno superando la soglia della capacità. La Germania è l'unico paese europeo che ha un eccesso di posti di terapia intensiva, perché ne ha circa 5 volte i nostri, 25.000. E questo è l'unico momento nella quale la Germania può aiutarci, perché fra un mese sarà nei guai anche lei e saranno, esatto, nei guai anche gli altri paesi. Però io l'ho indirizzata a Ursula von der Leyen, a David Sassoli, presidente italiano del Parlamento europeo, alla Merkel, ho taggato Di Maio e Meloni, però finora non ho avuto riscontri. Quindi anche persone ben più autorevoli di noi e in grado di dare una risposta concreta. Però le vorrei sottoporre questo. Oggi Mattia Feltri sulla stampa racconta della elaborazione messa a punto dall'economista tedesco Henrike Enderlein, secondo cui la Germania di fatto è 8 giorni in ritardo sull'Italia con i dati, e lo stesso vale per la Spagna in ritardo di 6 giorni, la Francia di 9, il Regno Unito di 14, cioè sono semplicemente più indietro rispetto a noi. Lei ha fatto degli interventi sul Messaggero. Guardi, sono esattamente queste le cifre, sì, corrispondono, ok. Lei infatti sul Messaggero ha fatto degli interventi che io ho letto con molta attenzione nei giorni scorsi, molto duri, cioè sinceramente ha scritto che i leader europei hanno fatto per ora ognuno per sé e nessuno per gli altri, ed è abbastanza incredibile questa carenza dell'Europa. Come mai secondo lei l'Europa ha i momenti in cui bisogna stringere i cordoni, arrivare a un risultato, sembra un pochino carente? Ma guardi, non è che lo sembra, l'Europa non esiste. In Europa c'è un solo partito, è il partito sovranista degli singoli stati nazionali. Sono tutti sovranisti, si scagliano contro il sovranismo dove si manifesta, ma sono i più sovranisti di tutti, tutti i governi. Tutti i governi pensano soltanto a se stessi, ma questo è evidente nei periodi di crisi ed è semplicemente meno visibile nei periodi tranquilli di prosperità, in cui le parole dominano sui fatti e sui comportamenti. Ma è questo il vero test. Anche per questo io ho lanciato questo appello, perché questa è infatti il titolo dell'appello contiene l'espressione "se non ora quando", perché questo sarebbe il momento di mostrare un minimo, un briciolo di solidarietà. E invece l'Europa è costruita, è una confederazione di interessi nazionali che finge di avere una visione comune, ma è una finzione che nei momenti di crisi viene fuori. Cioè lei dice ci sono le istituzioni, sì, ci sono le istituzioni, c'è la banca centrale, ci sono i trattati, ci sono, ma poi alla fine ognuno pensa al proprio interesse nazionale. Guardi, a me colpisce molto questo, che c'è una piccola minoranza di persone nel mondo politico in Italia che intona da anni lo slogan "più Europa, ci vuole più Europa". Ma li avete sentiti in questo momento gli europeisti fare loro un appello, un'iniziativa politica a livello comunitario perché ci siano meccanismi di solidarietà, dalla distribuzione delle maschere fino ai posti di terapia intensiva? Sono spariti quelli che dicevano "più Europa". Dove sono? Sì, proprio adesso che servirebbe. Tra l'altro mi interessa un altro dato molto, molto importante sul quale voi come Fondazione IUM vi state concentrando, che è il tasso netto di riproduzione. È un tasso fondamentale indicato come R0, che indica il numero di casi generati in media da ogni singolo caso, cioè traducendo quante persone una persona infetta può a sua volta infettare. Esatto. E su questo, professor Ricolfi, ci sono dei dati che sono giorni decisivi, ecco, non, per capire se questo dato potrà scendere sotto 1 oppure no, e da qui dipenderà anche un po' il destino dell'Italia dei prossimi giorni, no? Sì, noi stiamo, come quasi tutti quelli che fanno modelli matematici, calcolando R0, ma c'è ancora molto, molto controversia. C'è qualcuno che ritiene che sia vicino a 2,5, qualcuno come il professor Crisanti, se non sbaglio, ieri era da noi, da Nicoletta Carbone, certo, era, ah, ecco, era no, da Nicoletta no, Carbone anche a Radio 24, certo, sì. Il professor Crisanti è una persona straordinaria, io non lo conosco personalmente, ma ho letto tutte le cose che ha scritto e le cose che ha fatto. Secondo me è la vera autorità in campo epidemiologico in Italia. È incredibile che il governo non abbia pensato di coinvolgere persone di valore e abbia scelto di circondarsi di papaveri della sanità e della pubblica amministrazione, anziché ricorrere al manipolo di persone in grado di gestire un'epidemia, come ha dimostrato il professor Crisanti nel caso di Vo. Di Veneto. Sì. Comunque, tornando a R0, anche noi abbiamo le nostre stime. ma io penso sia un po' incauto pubblicarle adesso, anche perché sono piuttosto diverse da zona a zona, cioè non c'è un unico valore di R0, ci sono dei posti in cui R0 è molto alto, dei posti in cui è più basso, le stime fluttuano e quindi secondo me bisognerà aspettare un paio di settimane per avere un valore credibile di R0 e soprattutto per sapere se sta effettivamente scendendo. Certo, e questo lo vedremo. Io, professor Ricolfi, nel ringraziarla, ripeto, l'appello lo trovate su change.org, è una petizione. Chissà, magari insomma in questo bailam di notizie più lentamente parte, ma qualcosa partirà. Lei è un po' scettico, mi sembra di capire. Ma guardi, noi abbiamo taggato anche il ministro degli esteri Di Maio quando l'abbiamo lanciata l'altro ieri sera, sono 36 ore che l'abbiamo lanciata. Lui è il ministro degli esteri, non so se è l'orgoglio nazionale che lo porta a non chiedere nulla alla Germania e a ignorare completamente la nostra petizione, o è semplicemente che hanno sempre altro da fare, non lo so. Staremo a vedere. Intanto, professor Ricolfi, io la ringrazio molto per essere stato qui a Radio 24 in diretta. Voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che effettivamente il professor Crisanti, che è stato citato anche prima da Luca Zaia, ospite da Simone Spezia e Maria Latella, è colui che è dietro, come studio matematico, alla scelta di fare i tamponi a tappeto a Voe Euganeo. A Voe Euganeo è servita questa linea. C'è da dire che è una linea dibattuta dalla scienza, perché sentivo e leggevo anche oggi il professor Massimo Galli, che è un altro luminare in materia, a dire: beh, ma se noi facciamo il tampone a tappeto, scopriamo magari in uno che è asintomatico che oggi è negativo, non vuol dire che se domani glielo rifacciamo non potrebbe essere positivo. Domani cosa dobbiamo fare? Ogni giorno dobbiamo fare il tampone? Io mi fermo, come sapete, in tutti questi casi e in tutti questi giorni lascio parlare o do il riferimento degli scienziati, ed è bene che invece io, almeno come giornalista, sono ignorante totalmente in materia, posso solo ascoltare, dare voce all'uno all'altro e fare un passo indietro. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi ci sarà Vestagliona Manera con noi, gli ascoltatori, ci collegheremo anche con Londra per capire che succede a Londra. Voi chiamateci all'800 024 0024, vediamo se cigola ancora la finestra. Si cigola un po', d'altronde devo mettere dell'olio. Lo chiederò a Luca l'edicolante, che non mi ha dato la Gazzetta dello Sport, e gli dirò di buttarmi su dell'olio per ingranaggi e meccanismi. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, ma come mai per gli agenti di commercio questo decreto non prevede niente? Bel puntone interrogativo, ciao, state grossi. Mi spiegate scientificamente, e non è una presa in giro, per quale motivo posso stare 10 ore fuori di casa, nei prati, nei campi, nelle aziende, visto che giro dappertutto per lavoro 10 ore al giorno, e 10 minuti di passeggiata da solo non li posso fare. Ciao Milan, Viviana da Roma, una parola per tutti i portieri che come me e mio marito continuiamo a venire a lavorare, a consegnare la posta, a consegnare i pacchi e dare una mano agli anziani del condominio. Grazie. Un saluto dal settore delle telecomunicazioni, un abbraccio virtuale a te e Leo e tutta la redazione. Eccoci qua, eccoci in diretta. Scusate un attimo. Signora, dove va lei? Dove? Ah, vabbè, scusate, qui dal balcone chiedo a una signora dove stia andando, ma non mi ha risposto, mi ha guardato anche male. Leonardo? No, perché sai, Archimede, cioè, Leonardo! Archimede ha inventato la leva! Archimede ha inventato la leva! Questo che gli volevo dire dal mio balcone. No, c'è un motivo. Ma adesso che lo sappiamo? Ma chi se ne frega! Infatti, grazie Alpino, sei stato perfetto. Ma scusa, cioè, adesso... Un po' di cultura, sì. Perché ieri con mio figlio Beniamino abbiamo studiato la leva Archimede, ecco. I tipi di leva che ci sono, quali sono, quanti sono. Sì. Beniamino, quanti tipi di leva ci sono? 3. Quali sono? 3. Da cosa dipendono queste leve? Dai bracci dal Vabbè, ma non innervosirti. No, sì. Ma ho capito, ma che insegnante sei? Allora, Beniamino, dagli il tempo. Bravo, Beniamino, 7 e mezzo. Sì. 7 e mezzo. Sì, tutto il pomeriggio a studiare sta cavolo di leva, il fulcro e i bracci. Basta, questi compiti. Vabbè. Basta. Vabbè, no, invece io ce l'avevo con una signora. Ce l'avevo, volevo chiedere a una signora, perché vai in giro. Hai visto che i milanesi vanno in giro. Hanno studiato, sì, però... dei cellulari, vabbè. Ho capito, ragazzi, cioè, no, non è che vanno in giro. Io per esempio devo andare a prendere mio figlio che abita a Brugherio, io abito a Milano, cosa faccio? Ma sì, ma allora io sono uno che si sposta e cambia cella, posso andare o non posso andare? Ma no, ma certo che puoi, voglio dire, però sono uno di quelli che si spostano, ma però certo, sto dicendo tutti quei, ma anch'io allora io ho svelato oggi di essere all'ultimo giorno di quarantena, di autoquarantena, perché ho incontrato una persona positiva. Adesso è finito, tutto a posto. Da lunedì tornerò in radio, perché devo tornare in radio, cioè è anche mio dovere dell'informazione, no? Trasmettere da lì, quindi mi dovrò spostare. Però... mi chiedo, tutti si spostano per un motivo concreto e giustificato? Lo chiedo. Evidentemente, se noi siamo due. Sì. Io e te, ma... quindi se, diciamo che su noi due siamo il 100% di noi due, giusto? Tu ti sposti per un motivo giustificato, che è andare in radio, io mi sposto per un motivo giustificato, andare a prendere mio figlio, quindi il 100% di noi due ha dei motivi giustificati. Sì. Va bene, il 100%, poi, ma tu non ti sposti tutti i giorni intanto per andare a portare o a prendere tuo figlio, ti sposti qualche giorno. Allora, c'è un'altra cosa che mi dovrebbero spiegare, che io non capisco con tutta la buona volontà. Anche ieri da tutti i telegiornali è stato ribadito che si può, è concesso, si può andare a correre, a fare movimento solitario nel parco. Qualcuno va, e allora dovrebbero dirmi perché poi questi che vanno automaticamente sono considerati dei trasgressori o delle merde umane. Questa è una cosa che io non riesco a capire. No, se mi dicono che si può fare, e me lo dice il governo, se uno poi lo fa però viene ripreso duramente, allora ditemi che non si può fare, la chiudiamo lì o no? Sì, guarda, non ho una risposta. Andiamo a Londra, guarda, sentiamo invece come si vive questo momento a Londra. Noi ci lamentiamo dei nostri politici, ma obiettivamente abbiamo visto Trump in America e Boris Johnson in Gran Bretagna letteralmente cambiare atteggiamento nel giro di 2 o 3 giorni. Salutiamo Lazzaro Pietragnoli, che è capogruppo laburista del Camden Council del distretto della città di Londra. Buongiorno Pietragnoli, grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Allora, intanto com'è la situazione a Londra? Cioè è tutto chiuso adesso? È semiaperto? Ci si può spostare? Ci aiuta a capire. Allora, al momento ci si può spostare, i negozi sono aperti, le persone circolano per la strada, l'avviso che sta dando il governo è quello che le persone che sono più deboli di salute, gli anziani, i bambini con problemi respiratori, persone che hanno sintomi di influenza o di coronavirus devono isolarsi per 14 giorni, come avete fatto voi, e invece le altre persone devono evitare di andare al lavoro e quindi ridurre al minimo i contatti sociali. Cioè, però è tutto incredibile, scusi. Quindi si può andare a correre nel parco. Si può andare a correre nel parco, ma è incredibile perché l'ho detto prima e lo dicono studi economici, siete in Gran Bretagna, dico, in ritardo 14 giorni rispetto all'Italia, la Spagna in ritardo 6 giorni, la Francia 9, vuol dire che numeri alla mano, se non cambiate la situazione, tra 14 giorni vi ritrovate nella situazione in cui si ritrova l'Italia. Ed è incredibile come l'Europa non impari, certo, vabbè, adesso... la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, però questa è un'altra questione. Cioè non si capisce, Pietragnoli, che bisognerebbe intervenire adesso e fermare tutto? In realtà la posizione del governo cambia in maniera abbastanza costante con l'aumentare del diffondersi del virus. Io non voglio difendere Boris Johnson assolutamente, perché io credo che alcune affermazioni che lui ha fatto in televisione, tipo basta lavarsi le mani, o ci saranno tante persone che moriranno, sono state assolutamente equivoche. Però al tempo stesso la diffusione del virus in Gran Bretagna al momento è molto bassa. Ci sono 2.000 casi confermati e ci sono stati fino ad ora 400 morti, che sono un numero molto alto ma sono un numero assolutamente basso rispetto a quello che c'è in Italia. Lo so, ma è proprio questo il punto, Lazzaro. Scusi se interrompo su questo. Il 3 marzo in Italia c'erano 2.000 casi e 53 morti. Ieri in Gran Bretagna 1.950 casi e 55 morti. Siete come era l'Italia al 3 marzo. Se si fanno gli errori dell'Italia di dire un po' alla volta, il timore è che tra 14 giorni sarete dove noi eravamo il 3 marzo. Ecco questo. Dalle informazioni che ho io e dai movimenti che sto vedendo, l'indicazione è quella che la risposta escalerà in maniera molto molto veloce. Quello che stanno cercando di capire è di evitare, proprio perché ci sono esperienze diverse in altri paesi, di evitare una eccessiva reazione quando le strutture sono ancora capaci di funzionare. Nel senso, gli ospedali in questo momento hanno capacità. Faccio un esempio molto semplice: le scuole non sono ancora chiuse. Hanno calcolato che se chiudessero le scuole ci sarebbe una diminuzione del 15% del personale sanitario che rimarrebbe a casa con i propri figli, e questo ovviamente metterebbe in crisi il sistema sanitario e il sistema di risposta che il sistema sanitario può dare. A questo punto il bilanciamento è a capire: siccome le vacanze di Pasqua cominciano fra 7 giorni, 10 in alcune scuole, è utile chiudere le scuole adesso per 10 giorni e limitare la capacità di risposta del sistema sanitario nazionale piuttosto che aspettare 5 giorni o 7 giorni quando le scuole finiranno naturalmente? Leonardo, non ti sembrano le stesse domande che ci facevamo noi qualche giorno fa? Cioè, mi sembra di vedere nei vari paesi la stessa dinamica che noi in Italia abbiamo vissuto per prima, cioè le stesse domande, le stesse inquietudini. È anche vero che, essendo una situazione nuova, ogni paese cerca una propria strada, no? E forse proprio perché è una situazione nuova. Non dovresti imparare dal tuo vicino, visto che il virus passa alle frontiere tranquillamente, non è che... No, nessuno nella vita impara mai dagli altri, questo dobbiamo dirlo. Si impara sempre sulla propria pelle. Questa è una grande massima che ci regala. Comunque, noi, nel ringraziare Lazzaro Pietragnoli, che voglio ricordare capogruppo laburista al Camden Council, distretto e città di Londra, uno dei 32 credo distretti della città, lo ringraziamo veramente in bocca al lupo, nel senso, speriamo di non essere, ma non è che dire le Cassandre, i numeri direbbero questo, cioè che la Gran Bretagna semplicemente è indietro a noi di 14 giorni, e lo sono proiezioni matematiche che sono state fatte da analisti matematici e sono pubblicate oggi per esempio sulla stampa. Staremo a vedere. Caro Leonardo, sai che Giovanni via mail ci ha risposto su Apocatastasi. Vabbè, chiaro, è andato la su parola Wikipedia. Che ho lanciato io ieri. Sì, ma non cos'è Apocatastasi? Che io non lo so. E questo termine usato dagli stoici per indicare il ripetersi in tutti i suoi particolari del mondo dopo la sua distruzione, nella conflagrazione generale. Cioè, capito? Ecco, hai visto che ieri ho lanciato questa parola che ha a che fare col nostro momento storico? Sì, voglio un premio in pratica, come rappresentante come cosa, culturale, cioè, di Radio 24. Voglio che la signora Scaglioni mi dia una targa con sei il rappresentante culturale di Radio 24. Sì, faccio questo in appello pratica, alla signora Scaglioni. È il ristabilimento di ogni cosa nell'ordine voluto da Dio alla fine dei tempi. Questo è teologicamente parlando. Era più facile leve e il fulcro ai bracci di Archimede, effettivamente. Va bene, c'è Davide che ci chiama da Bologna. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. E niente, io lavoro nella logistica, faccio il Corriere Espresso, che è un settore a quanto pare completamente dimenticato, perché tra l'altro nei giorni scorsi ho sentito che vengono idolatrati. Ieri addirittura leggevo un articolo dell'uomo dell'ossigeno, il meccanico più veloce del mondo, tutte queste categorie che fino a qualche giorno fa erano completamente dimenticate. Addirittura un edicolante che esigeva una medaglia al valore, vabbè, ma non sto qui per questo, io voglio semplicemente capire come hanno stabilito, secondo quale criterio, quali negozi debbano essere chiusi e quali debbano essere aperti, perché cerco di entrare nel merito. Cioè, io penso che sia stata fatta una sorta di sorteggio, io ce lo vedo, Conte lì che prende la pallina e dice questa resta chiusa, l'altra no, resta aperta. Perché il sorteggio? No, ma Davide, le dico perché. Generi guardi, alimentari, generi prima necessità. Sì, ma io io proprio questo è quello a cui voglio arrivare. Allora, le profumerie, ok, come ha detto anche Salvini l'altro giorno, cioè, sì. I centri ottici, ok, tutte queste attività, tra l'altro se voi andate a chiudere determinate attività vuol dire che è sconsigliata, se non vietata, la vendita di questi oggetti. Allora io vorrei capire perché io la mattina devo consegnare un canestro da cortile a casa delle persone. Per che quale motivo? Un canestro, rappresenti i canestri che si mettono nel cortile. Sì, dove ma perché lei, giocano. Se ho capito bene, lei è un corriere di una un di quelle piattaforme. Io altro che generi, noi proprio l'ultima cosa che portiamo sono i generi di prima necessità, non abbiamo nulla a che fare. Io voglio capire perché noi dobbiamo essere esposti a questa situazione per far contenti le persone, cosa siamo noi, facciamo. È interessante Davide, cioè lei dice noi come corrieri vorremmo trasportare solo generi di prima necessità, se uno mi chiede il canestro per far giocare il figlio in questo momento in cortile, perché io devo portare un canestro da cortile? È interessante questa domanda. E lei che risposta si è dato, Davide? Guardi, io mi sono dato la risposta che in realtà questo è lo stesso motivo per cui le restrizioni dovrebbero essere in realtà presentate come dei supporti ai cittadini. Cioè nel senso, la restrizione di per sé fa venire fuori quel lato, come dire, cioè è lo stesso motivo per cui le persone escono fuori con i cani finti, hai capito? Cioè se voi vietate il... con i cani finti, dai. Sì, i cani finti, beh, io l'ho vista su WhatsApp come, allora come vignetta, allora, come battuta, dai, non è che la gente va con il peluche. Un esempio più pratico, ma è vero, succedono queste cose, c'è gente che fa la spesa 20 volte al giorno, basta fare la spesa la mattina, ti metti il sacchetto a fianco, esci tutto il giorno con il sacchetto della spesa. Basterebbe anche una volta ogni tre giorni, ma sì, certo, basterebbe. Ma è chiaro, no, ma ha ragione Davide, io anch'io mi sono arrabbiato, ho fatto 14 giorni di autoquarantena, è stata pesante, è stata faticosa, ho rispettato le regole, ma se il mio vicino di casa non le rispetta, io esco ed è come se non avessi fatto niente, cioè è come se io non, no? Cioè se io affianco Manera, che invece va in giro, fa gli aperitivi, chiama il bar Jimmy e sotto banco apre la serranda e si fa i grandi sprizzoni, no? Sei così tu, no. Leonardo? Sicuramente, non vedo l'ora di fare così. In questo... Il problema è che uno si attiene alle leggi e alle disposizioni. Ma non si attiene. Il problema è che uno non si attiene, la maggior parte non si attiene, dai, diciamo la verità. La maggior parte, magari si attiene alle disposizioni. Ho visto gente che va in giro anche solo col collare del cane, poi se viene fermato, cioè, si è allontanato un attimo. No, sì, è vero. Questa non è male, il collare così, dice... Fufi, dicendo giro. Fufi, dove sei? Fufi. Se io gli auguro a questa persona che si manifesti un Rottweiler incazzato quando chiamo Fufi, poi voglio vedere Fufi come se lo ritrova davanti. Vabbè, andiamo al traffico. Rispetto alle disposizioni. Uno, nessuno, 100 Milan. Leonardo, se quello che va singolarmente del parco si ritrova altri 200 come lui, logicamente non sono più singolarmente. Mio marito ed io, 76 e 72 anni, da quando c'è il divieto non siamo più usciti di casa. Sentiamo le figlie solo al telefono. In questo momento mio marito sta facendo la sua passeggiata, cucina a soggiorno e la farà per almeno mezz'ora. Eccolo, vedi, guarda, scusi, dove, posso sapere dove va? Ah no, ecco, quello è il macellaio, aspetta, no, il macellaio, giusto, il macellaio può tenere aperto e stava, vabbè, niente, ho sbagliato io, scusate che era ascoltatore, ma qui dal balcone di Viale Monza. Quindi prendo, io non lo so perché non vado più da tanti giorni, ma quindi i centri commerciali durante la settimana sono aperti? Sì. Sì, durante la settimana sì, se mi risulta che siano chiusi il weekend. Ma io anche i negozi che sono dentro Anche i negozi che sono dentro i centri commerciali sono aperti, no? Se sono generi alimentari, immagino. Comunque, sì, dico solo generi alimentari. Sfida Luchetti, dai, lanciamo la sfida Luchetti. È lanciata, sfida Luchetti, Miriam Luchetti ci deve dire tutto. Tra l'altro non ho salutato oggi sia Miriam Luchetti che Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Guido Scotti, Laura Vanossi. Oggi abbiamo Guido Scotti adesso in regia, lo sai che ci... Ma è l'uomo che io invidio più di tutti nel mondo, Guido Scotti, è il mio modello. Perché? Guido Scotti, perché è un uomo risolto, secondo me. Tu vedi sempre persone inquiete che sono in grande crisi, invece tu vedi Guido Scotti anche da lontano e dici voglio diventare come lui, proprio già vedendolo da lontano. Scotti, stupendo. Sì. C'è Marco dalla provincia di Bergamo. Marco, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, al Radio Investaia e ai radioascoltatori. Senta, sì, vabbè. Il Radio Investaia. La questione è questa. Volevo dire a questi imbecilloni che se ne vanno in giro. Cioè, io faccio addirittura un mestiere che è proprio... Io vado lavoro per una lavanderia industriale dove vado a ritirare tutta la roba infetta. È peggio che andare a prendere un malato. Vedete voi? Accidenti. Sono costretto, lo faccio perché è il mio lavoro e mi sembra doveroso continuare a farlo, però si immagini con che pressione ogni giorno torno a casa, cioè, se ho beccato qualcosa io l'attacco agli altri, non penso per me, ma penso per gli altri. Però lo faccio perché è dovere, lo faccio perché è il mio lavoro, lo faccio perché sennò la bicchetta non si porta a casa. Però se potessi stare a casa, me ne starei a casa, ma non si può. Mm. E allora quelli che possono non lo fanno, e quelli che lo vorrebbero fare non lo possono fare. Vedete voi in che condizioni ci troviamo. Era solo questo, statevi a casa, io vado in giro, certo. Li vedo anch'io. Logicamente è calato, sinceramente io vedo in giro, è calato tantissimo. Sì. Però sempre gli imbecilli ci sono sempre. Sì, soprattutto nella provincia di Bergamo. Sappiamo che a Bergamo si sta vivendo una situazione ancora più drammatica come a Brescia. Però l'appello di Marco è assolutamente giusto. Leo, prima che ci dici le tue considerazioni, ti faccio notare che la nostra Elisabetta Fusconi ci fa notare dalla Svizzera che sai qual è il prodotto che va più a ruba, letteralmente introvabile, mm-hmm. Che la carta igienica, che giustamente tu avevi fatto una osservazione di recente. Sì. Perché? Ho detto, ma quanti culi avete? No, non lo so. Credo uno a testa. Sì, a testa. Ma accanto al water di solito c'è anche il bidet, quindi nel caso uno esaurisse la carta igienica no, può. Peraltro in Svizzera c'è. Neanche in Svizzera c'è il bidet. Però così si può ordinare. Si può ordinare online, visto che le consegne online funzionano, quelle assi del water che hanno il bidet incluso, cioè con la pompettina d'acqua, ecco. Casomai. Ah, ecco. Vabbè, insomma, dopo queste dotte, sempre cultura, eh? Sempre Alessandra Scaglioni. Ho un problemino visto che abbiamo parlato cultura, di sì. Abbiamo parlato sì. Di lavanderia, io ho un problema, magari qualcuno può darmi una risposta. Ho portato delle camicie in lavanderia 20 giorni fa, quando ancora si poteva portare le cose nei negozi. Sì, adesso beh. Poi però sulla lavanderia c'è scritto che se si lasciano le cose per più di 15 giorni poi vengono buttate sì. Via. Non sì, è sì, che sì, quando sì, io sì, riapro non venduto. Mi ritrovo più le certo. Camicie. No, vabbè, ma ci erano tengo delle le mie solite camiciacce sì, di livello. Per quelle che prendi al mercato a 3 euro, dai, su uno. Quindi no, sono 3 possiamo... euro, 3 camicie, 10 euro. Vabbè. Ecco, allora, appunto, vabbè. Vai. Allora, in questi giorni di costrizione forzata casalinga, in molti si prodigano a dare consigli su come passare le ore. L'ho fatto anch'io, leggere libri, inventarsi giochi con i figli, trovare un modo creativo di far passare il tempo. E quindi anch'io oggi voglio aggiungermi a questa schiera di persone che si impegnano per migliorare la nostra vita quotidiana. Cosa fare in questi giorni un po' vuoti per chi sta a casa? Il primo consiglio che do è misurare i mobili. Può sembrare un'attività inutile, ma in caso di trasloco invece si renderà fondamentale e permetterà al momento opportuno di sapere quanti mobili possono essere inseriti anche all'interno della nuova residenza. Seconda possibilità, cantare male. Questa è l'occasione per tutti quelli che vogliono ricevere un applauso anche se cantano male. In queste circostanze non conta il come si fa una cosa, ma è sufficiente farla. Quindi, anche se si canta male, stonatissimi, si riceverà un gratificante applauso convinto in nome della vita che continua e della resistenza. Poi, in questo periodo, possiamo scoprire se siamo allergici agli acari. Sapere se si è allergici agli acari può sempre essere utile qualora in futuro ci si trovasse in luoghi particolarmente polverosi. Ora che avete tempo, fate la prova in casa. Cercate uno sgabuzzino o un sottoscala che non pulite da anni, avvicinatevi e respirate profondamente più volte in base alla reazione, capirete se soffrite di allergia agli acari. Poi possiamo, in questi giorni vuoti, bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Una delle cose che ci viene sempre raccomandate per essere in forma è bere almeno 2 litri di acqua al giorno, cosa che nessuno di noi quasi fa mai, perché manca il tempo. Ecco che invece adesso il coronavirus ci dà l'opportunità di migliorare la nostra salute. Non è difficile. Munitevi di 2 bottiglie da 1 litro seduti in una comoda postazione. Quindi iniziate a bere fino all'esaurimento del liquido. Assumendo anche un'espressione soddisfatta, perché per una volta state pensando al vostro benessere. Inoltre potete in questi giorni provocare il partner. È vero, probabilmente la vostra è una relazione solida, ma potete utilizzare questi giorni casalinghi per mettere alla prova il vostro rapporto, provocando il / la vostra partner con frasi del tipo «ti sei lasciato andare», «sei flaccido», «sei molliccio», oppure, se lo dite a una donna, «ormai hai il seno che ti spunta da sotto la gonna». In base alle reazioni ricevute capirete il grado di solidità del vostro rapporto, utile per prendere decisioni quando l'emergenza sarà finita. Oppure potete in casa sparare sul muro con un fucile mai denunciato ai carabinieri. Chi di noi non ha in casa un fucile magari ricevuto in regalo da un parente che non è mai stato denunciato alla forza pubblica? Non l'abbiamo mai portato fuori per timore di incorrere in qualche sanzione, ma ora in casa è venuto il momento di provarlo. Nessuno si lamenterà del rumore, visto come un piacevole diversivo, e voi sul muro potrete testare le vostre doti di cecchino. Ultimo consiglio: piantare dei chiodi sul muro. Molti di noi hanno quadri in cantina che non sono mai stati appesi, perché anche per piantare un chiodo ci vuole un po' di tempo. Ora ne avete. Riempite i muri di casa, tutti i muri di chiodi, tantissimi, in modo che siano poi pronti a ospitare quadri per il resto della vita. Sarà tutto tempo risparmiato e in futuro, quando vi troverete in un mercatino, potrete fare incetta di quadri pensando «beh, tanto il chiodo piantato ce l'ho già, mi basta prenderlo». Inutile negarlo, è un bel risparmio di tempo. Queste sono solo alcune delle opportunità che ci offre questo periodo di coronavirus. Buona giornata a tutti. Grazie. Spero di aver dato dei consigli utili per passare il tempo. Utilissimi. Come ci scrive Guido Scotti, lui è una persona risolta, mentre la sfida Lucchetti, vinta, come sempre, è: ci sono limitazioni specifiche in festivi e prefestivi per i centri commerciali, durante i quali le medie e grandi strutture e esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali devono restare chiusi. Fanno eccezione ovviamente alimentari, farmacie, parafarmacie, eccetera. Va bene, c'è Enzo da Milano, cioè ci citofonano intanto e Mattia risponde al citofono. Va bene, c'è Enzo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Milano e tutti quanti. Sento una cosa veloce, io sono di Milano, no? Per preambolo, in questo periodo sono andato a correre una volta, quindi non sono un fanatico né niente, no? Io volevo chiedere qual è il fondamento scientifico e medico per cui uno che va a correre o passeggiare da solo corre un pericolo, può portare un pericolo agli altri, perché sinceramente non lo capisco. L'altra cosa è: fosse così pericoloso, ma cosa ci vuole a vietare di andare a correre? Ah, guardi, Enzo, è il grande tema di questi giorni. Oggi leggevo che un ciclista professionista, non so il nome, l'ho letto sul quotidiano nazionale, mi sfugge il nome, viene insultato continuamente perché si allena da solo per mantenersi in forma, e dice: non ne posso più degli insulti, mi danno dell'untore, ma io lo posso fare, ho la certificazione. Lasciamoci con questo dubbio al giornale radio e poi vedremo se Manera ci risponderà a tutto nella seconda ora. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Amico corriere, sbrigatevi anche a consegnare. Ho ordinato un Xbox da 3 giorni e ancora niente. Qua il tempo va ingannato. La carta igienica stanno facendo, ma basta, perché stanno cagando tutti quanti addosso. Scusa, ciao ragazzi. Milan, volevo chiederti una cosa. Ma le rate tipo di Equitalia, dell'Agenzia delle Entrate, che abbiamo rateizzato, no? Si possono non pagare alla scadenza? Hanno detto qualcosa? Dai Milan, che sei migliore, dai. C'è Mauro grazie caro ascoltatore, c'è Mauro Meazza e Deborah Rosciani per tutto questo tipo di risposte dalle ore 11. Vabbè, non commento quello della carta igienica, ma caro Leonardo Manera, adesso vogliamo un po' allargare gli orizzonti, perché non possiamo parlare sempre solo del coronavirus, ci viene un'ansia pazzesca. Allora, è uscita una ricerca del CNR fatta con l'università, fatta con la Federazione Italiana Cuochi, con l'Università di Catanzaro, e attenzione, perché su uno studio su 710 cuochi italiani si è scoperto che il 47% di loro, degli chef, ha riportato problemi di salute nella vita lavorativa, perché fare lo chef stressa. Allora noi, come dire, non potevamo non chiedere al nostro chef stellato, il nostro grande Davide Oldani. Davide, buongiorno e grazie di essere qui. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io ricordo con Pierluigi Pardo qui su Radio 24, Mangia come parli, sabato alle 11, ma insomma, allora Davide, ci devi aiutare a capire come mai lo stress per gli chef, dove risiede il rischio di problematiche di questo tipo? Buongiorno a tutti e grazie dell'invito, ci teniamo un po' su con queste chiamate anche, no? Lo stress degli chef credo che sia come in tanti, non in tutti, ma in tanti altri lavori, dove c'è una tensione particolare durante il servizio, però poi c'è anche una tensione perché la vita dello chef, fino a che avremo le regole e le leggi che abbiamo oggi in Italia, sarà quella del doppio servizio, del mezzogiorno e della sera, per cui ti porta ad essere sempre acceso per la giornata, per cui molte volte quando sei giovane magari ti passa un po', quando cominci ad andare avanti con l'età c'è il rischio appunto di sbandare, proprio perché non si regge il ritmo, ma credo che sia una cosa... È vero che gli chef, per la tensione, poi anche perché stanno spesso in un posto caldo, insomma, per i fornelli, tendono anche a bere molto e a diventare alcolisti. Allora, io devo dire che questo non è vero, perché con la tecnologia che c'è nelle cucine, vedi la mia in primis, c'è un'immissione estrazione d'aria, c'è tutte quelle regole che ti possano... Cioè la cucina, io vado tutto elettrico adesso, per cui non c'è più la fonte di calore del fuoco che c'era una volta, le piastre a induzione, le placche che ti permettono di cucinare non sono più quelle a gas o in ghisa di una volta, che erano portatrici di calore per tanto tempo nella giornata, una volta che erano spente, per cui sono tanta tecnologia che si è adeguata, ma la situazione delle cucine appunto in questo momento non è quella. Sono gli orari che dovrebbero essere discussi con una tassazione. Ma questo diversa. è interessante chef, cosa vuol dire gli orari, la legge, cosa propone? Io propongo quello che ho già visto in giro un po' per il mondo, e che soprattutto in Francia ci sia una regolamentazione di orari che ti possa permettere, se vuoi fare con la stessa brigata i due servizi della settimana, del giorno che richiede quando andiamo a mangiare tutti quanti, avere una detassazione su quello che è il nostro settore, ma è una cosa da approfondire, dove appunto sai che chi ha bisogno di un servizio lungo, magari da mezzogiorno alle 2, dalle 7:30 di sera alle 11 di sera, ci possa essere l'utilizzo delle stesse persone pagandole in maniera corretta e facendo degli orari diversi. Sì, il problema è quello che se praticamente si inizia proprio al mattino presto e si finisce a sera tardi, cioè così uno magari ha una pausa centrale della giornata, ma sta in ballo 20 ore, cioè 18 ore. Il nostro mondo, a parte la cucina, che faccia il doppio turno così, non ci sono altri settori. Gradirei sapere un suggerimento se ci fosse un altro settore. Ci sono settori che lavorano la notte, settori che fanno i turni, settori che fanno l'ufficio, ma non c'è un settore dove hai lo split, l'aspettato così, per cui così spalmato, o la detassazione a favore del del lavoratore, oppure un qualcosa che ci possa permettere di incrementare e fare la doppia brigata come in America facevano 20 anni fa già. Per cui questa è una cosa fondamentale su cui bisognerebbe riflettere in questo momento. Ma ti stupisce, Davide, sentire di questa ricerca? Non so quanto sia attendibile, ma insomma 47% vuol dire uno chef su due, una persona su due. 47% mi sembra esagerato. I numeri delle scuole che, per cui le persone vanno avanti a fare questo mestiere diminuiscono drasticamente, anche se la cucina è oramai un mondo di media, di successo secondo qualcuno e di esposizione mediatica piuttosto che uno stare in cucina a cucinare. Per cui sì, sì. Tutto questo, vita che vediamo dagli chef televisivi non è quella reale in pratica. Quella dei televisivi, ma servono anche quelle a farti conoscere il mestiere e a farti stare allegro, perché in TV fai spettacolo. Quello serve, però serve anche un'ulteriore sensibilità, non si direbbe perché dagli istituti alberghieri esca il 70% di gente che va avanti a fare il cuoco, il resto, o il 50% addirittura, sì. Il resto vada a fare altri lavori, magari nella GDO o in altre sezioni dove ti possano permettere di avere anche una tua vita, cioè di goderti la famiglia la sera, di avere le festività ben regolate con i cari, i propri cari, e tutte queste cose si sorvolano perché il cibo piace a tutti, è buono, non si pensa in maniera approfondita a quelli che lavorano dietro a questo mestiere. Sì, che lavorano proprio quando noi, insomma, quando ci sono le ferie, quando il sabato, la domenica. C'è un messaggio straordinario per concludere il nostro ascoltatore Sam, che dice: sono di Cornaredo, dove c'è ovviamente il Dodi Oldani. Se si sta annoiando il maestro, può venire gentilmente a cucinarmi a cena. Non sarebbe male, stupendo. Ovviamente se viene contravveniamo alle regole e tutti quanti, Leonardo, andiamo a casa, perché non è che adesso l'ascoltatore si può fregiare. L'ascoltatore, che tutti quanti dobbiamo essere tutti a casa adesso, in questo momento dobbiamo solo dire che bisogna stare a casa, poi dopo quando ci sarà da svizzarirci, divertirci, lo faremo, però questa cosa della cucina, lo stress c'è, uno lo deve poi regolare in base al suo self control, al suo modo di fare, io per quello che mi riguarda da imprenditore ho deciso una linea dove hanno i ragazzi più riposi, c'è un lavoro di orari inferiore, prendiamo prenotazioni fino a una certa ora, oltre non si fa, per cui ho nel mio piccolo messo in atto un approccio etico, però devo dire che in molte situazioni non è così facile metterle in atto. Ecco. Davide, no, è chiaro, ci vorrebbe un'ultima regolamentazione. Una domanda, in questi giorni che siamo obbligati a stare a casa, secondo te possiamo sfondarci di cibo? No, allora giusta domanda, e io direi di mangiare, di divertirci a cucinare come fanno in televisione, quello sì, ma mai abusare del cibo, perché è il nemico numero uno nel momento in cui lo si affronta in maniera sbagliata, perché noi viviamo solo se mangiamo, per cui puoi capire che il peggior nemico è quel qualcosa di cui poi andiamo ad abusare. Assolutamente al radioascoltatore di prima che diceva rateizzato, mi sembra di aver capito che rateizzano, però non si pagano ammende nel caso di spostamento, di pagamenti di tasse eccetera, però poi credo che dovremmo pagarle naturalmente, come giusto che sia, sì. Grazie Davide Oldani, grazie al nostro voi, chef forza, nostro di forza, Radio 24 siamo in casa, forza, siamo in questo casa e cuciniamo giusto. E cuciniamo il giusto e bene per chi riesce. Questo non è facile per tutti, però ce la mettiamo tutta. Grazie Davide Oldani, ricordo con Pier Pardo, Mangia come parli, sabato alle 11 su Radio 24. Caro Leo, andiamo a sentire informazioni sul traffico. One Express, il pallet espresso. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Vila, Lorenzo Brescia, e intanto nel frattempo Brescia Ovest, Milano Monza, autostrada, aumento di 2 euro. Ma siamo sempre noi che dobbiamo tirare la cinghia, porca miseria. Grazie, buona giornata. Va bene, abbiamo sentito anche allora il nostro chef Davide Oldani a dire: state in casa, cucinate, mangiate il giusto, occupatevi del cibo. E... mamma mia, che volgarità, che volgarità! Mangiate, no. Mangiate il giusto, ma il cibo. Mamma mia, che volgare. No, dai, il cibo. Ho deciso di intervenire perché sentivo un sovrappiù di un valore aggiunto di volgarità. Ecco, allora bisogna in qualche modo riportare entro i limiti. Lei sa che io sono Bernardo Ferruccio Ronchi Baron Kelly, chef emozionale. Certo. Cuoco, io non cucino. No, io sono il chef emozionale, ma c'è anche chi mi chiama creatore. Ecco, c'è chi mi chiama quintessenza, c'è chi mi chiama Dio, c'è redenzione, sì. Catarsi, anche Pasqua. Anche apocatastasi, forse, secondo me qualcuno. Guardi, sì. A me piace molto Pasqua perché è il simbolo della resurrezione. Le persone quando vengono da me dicono: buongiorno signor Pasqua. Ecco, perché signor sono il simbolo Pasqua. Della sì. Sì, vabbè, sì. Buongiorno Pasqua. Ecco, invece buongiorno, quello che viene Pasqua. Dopo è il dramma dell'umanità il giorno dopo, la Pasquetta. Quando si va a fare la gita fuori porta, a fare il picnic con le uova sode, mamma mia! Allora, se vuoi mangiare le uova sode con la maionese, va a fare il picnic su un prato di periferia tra formiche e scarafaggi. Ma non venire nella mia dimora culinaria, il desco di Nice, la pannocchia di Castelbiondo. Sì, certo. Allora, in questi giorni sono rimasto aperto, perché il mio non è un ristorante, no. Come? La mia come? Dimora culinaria, che però è stata giudicata dall'Unione Europea come un servizio essenziale primario per tutti, di che cosa? Per quelli che vogliono esperire una estasi mai conosciuta prima. Il cibo è volgare, ma da noi non c'è cibo. Il nostro è cibo per l'anima, ti mette in diretta comunicazione con Dio. Soprattutto quando paghi il conto, sì, quando paghi il conto. Quindi noi rimaniamo aperti, tutti vestiti in cashmere, dalla testa ai piedi, a proporre nuovi lampi di genio nel mare magnum della banalità culinaria, ad esempio. Gli altri fanno l'uovo in camicia, no? Semplice. Noi facciamo l'uovo in camicia di cashmere con i gemelli attaccati all'albume. Allora... comunque, sì. Oggi voglio regalarvi una mia creazione. Che si chiama Tra corpo e anima. Tra gli ingredienti, e anima. Esatto, gli ingredienti sono uno snello di grano duro, detto anche spaghetto, uno snello di grano duro e un refolo di vento, un soffio di vento. Allora, scusi, un refolo di vento, cosa vuol dire? È uno dei due ingredienti della mia ricetta emozionale. Allora, vabbè. Lo spaghetto rappresenta il legame con la terra, il grano, quindi il corpo, la parte più istintuale di noi. Invece il refolo di vento rappresenta la nostra anima. Ebbene, cuocete lo spaghetto in un pentolino d'oro zecchino arricchendo l'acqua con sale rosa dell'Himalaya. Ma come estraetelo poi... estraetelo poi con cura dal pentolino lo snello di grano duro, posatelo in una cornice al momento giusto, quando le previsioni del tempo lo consentono. Aprite la finestra in modo che un refolo di vento si posi sullo snello di grano duro e voilà! Voilà! Il gioco è fatto! Sì. La ricetta è compiuta, 220.000 euro anche rateizzabili. Così rateizzabili, ma 220.000 euro per questa creazione. Potete farlo anche a casa vostra, ma non avrete mai il refolo di vento di Pannocchio di Castelbiondo, ove è sita la mia dimora culinaria. E sì, quindi ecco, io con questo vi saluto, arrivederci da me e da mia moglie. Grazie. Maria Assunta Benedetta Intingolo Paciulli. Dovreste ringraziarmi perché vi regalo grazie maestro, grazie Pasqua per essere stato con noi. Dicevamo, adesso siamo quasi in conclusione, tra poco ci sarà... cosa c'è? No! No! No! Cosa, chi è? Pronti? Una piadina romagnola, piadina, una focaccia ligure, delle mozzarelle e del prosciutto di Parma. Le scambio volentieri con delle confezioni di rösti e bratwurst dalla Svizzera, grazie. Va bene, dalla Svizzera. Elisabetta Fusconi, reclusa in Svizzera, noi non siamo per nulla dispiaciuti. Come va lì? Come va? Ciao! No, niente, un po' ho una fame a sentirvi parlare di cibo, un po' non ne posso più di cibarie svizzere, per cui proponevo questi scambi, se gentilmente mi mandaste il cibo che vi ho richiesto, io rifondo con dei rösti, con dei bratwurst, raclette non è quasi più stagione, ma qualcuno la desiderasse, ecco, noi non la mando anche quella. Perché, perché in Svizzera la carta igienica va a ruba? Guarda, è incredibile, ieri ero super... e tutti ne facevano richiesta e i commessi erano desolati dicendo domani forse arriva, ne arriverà altra, non lo so. Fatto sta che tutti ne stanno facendo incetta, io credo sia da imputare al fatto che qua mancano i bidet, però ecco, non vorrei soffermarmi troppo su questo aspetto, almeno su questo lo lascerei particolare commentare a voi o a Leo, ecco, grazie. So, Leonardo, tu hai un'idea sugli svizzeri? No. Così. No, secondo me è una preoccupazione apprezzabile se non c'è il bidet. Non sapevo che in Svizzera non esiste. Ma come mai un paese così notoriamente, insomma, universalmente conosciuto per la pulizia non ha il bidet? Questa è una grande sorpresa che mi fa calare molto la Svizzera nella mia considerazione. È un tema, Leo. Oggi passerò la giornata a interrogare gli svizzeri dalla finestra e glielo chiederò. Ma scusa, perché fammi capire, me lo chiede da tempo. Se tu chiedi a un architetto voglio mettere il bidet nel mio bagno, che cosa fa? No, niente, lo importano, lo importano dal... No, no, non è vietato, però non è di uso comune, non è usato, ma è un'eccezione tutta italiana, qua dovremmo dedicarci un'intera puntata. Un'intera puntata, sì, va bene. Intanto rimani in Svizzera. Abbiate il coraggio di dirvelo, che vi manco, ditelo apertamente a tutti, ditelo. Leonardo, dillo tu, ti manca? Non... Ci provo, ma non ce la faccio a dirlo. ce la mettiamo tutta. Magari domani, magari domani, Baba. Non ti preoccupare, magari domani ci manchi. Intanto, per il momento, ti salutiamo. Saluta tutto. Bon, su, dai, il Ticino, vai, saluta. Il supermercato, il super, la meteo, il Natel. Va bene, allora siamo quasi in chiusura ed è tornato con noi Federico Taddia, grande Fede. Eccoci qua, buona giornata. Deve proporci dei giochi. Io non ho ancora capito quanti di questi giochi Leonardo abbia eseguito. C'è suo figlio Beniamino anche a casa. Leonardo, prendi appunti, dai. No. Che... Sono giochi irrealizzabili. Vediamo se oggi ne propone uno fattibile, ancora. Federico maledetto. Maledetto, allora, vai, credo Fede. Che c'è poco tempo. Allora, ve ne propongo uno per uscire di casa stando in casa. Allora, sapete che la grande passione dei nostri figli sono i droni, no? Comunque piacciono, è uno degli oggetti che in più in questi anni ha preso la loro fantasia. Quindi oggi impareremo a vedere con l'occhio di un drone. È un gioco che chiede un po' di preparazione. Usando Google Earth, che tutti sappiamo che ci permette di vedere i dintorni di casa dall'alto, dovete preparare e fare delle schermate dei posti che i vostri figli, quando possono uscire di casa, solitamente frequentano. La scuola, la palestra, l'oratorio, la casa del nonno. Insomma, andare proprio a cercare dall'alto le immagini di questi luoghi, che visti dall'alto sono ovviamente molto diversi, no? Però dobbiamo abituarci. E secondo me qui Leonardo non ce la fa, perché con la tecnologia è un disastro, peggio di me. Leonardo, Google Earth? Cosa sai, Leonardo, cos'è Google Earth? Guarda, ti dirò che questo gioco mi piace, perché mio figlio sa tutto, lo può fare lui. Beh, bello. Ma infatti è Beniamino che deve far giocare Leonardrone in questo caso, esatto. Va bene, hai azzeccato allora Federico con questo, con questo gioco, vai. Leonardo ci ha azzeccato con Leonardo. Esatto. E ovviamente vince se ci sono più concorrenti, il primo che riesce a indovinare cosa avete inquadrato, oppure insomma andate con il tempo. Però insomma, un bel modo per imparare anche a riconoscere i posti da un altro punto di vista. Il secondo, molto veloce, per giocare in casa con le Olimpiadi, che è il nostro grande tormentone, oggi giochiamo a scherma. È molto semplice. Scherma. Si gioca in due, questo è facile, Leonardo, ce la puoi fare. Una molletta da bucato a testa, parte la sfida, vince chi riesce ad attaccare la molletta all'avversario. È proprio uno davanti all'altro. Cioè, ma la moletta ai vestiti, ai vestiti, puoi colpire ovunque, vestire. Pantaloni, questo, maglietta. Lì dipende, allora, se poi fai quello raffinato, quindi dipende se è fioretto, se è sciabola, se è spade, insomma, puoi anche giusto. Cambiare parti del corpo. Però insomma, vince chi riesce ad attaccarlo. Vi consiglio le molette di plastica, che è più facile rispetto a quelle di legno. Puoi attaccare anche al naso, al naso, questa è la versione un po' aggressiva, sì. Chi lo attacca al naso... Comunque, è meglio non fare il gioco, è meglio non fare il gioco nudi comunque. Sì, no, nudi, no, questa, nudi no. Vabbè, questa è un'indicazione che facciamo nostra, assolutamente. Quindi Fede, ci troviamo scherma e Google Earth, ci troviamo esatto. Domani, dobbiamo chiudere per dare la linea a Nicoletta Garbone, che come sapete tutta la settimana farà questo speciale dalle 10.30 alle 11 sul coronavirus. Ale, noi ci troviamo domani alla stessa ora dalla ridotta di Viale Monza.